Firenze, what's up? Firenze, what's up? What's up? What's up? Firenze, what's up? Come on. Ehi, non c'è niente da fare. Stile di vita che ci fa sognare. In ogni città vogliamo si sappia che Firenze è anche riva. Firenze, what's up? Firenze, what's up? Firenze, what's up? Firenze, what's up? Come on. Nella città d'arte c'è una scena che prende parte, si espande e va. Questa ondata prova a fermare. Puoi vederci per queste strade a cazzeggiare. Le divise sono pronte a braccare. Questa merda sappiamo come trattare. Troie e bastardi vogliamo trasportare. Ogni occasione buona per sbaldare. Ehi, non c'è niente da fare. Stile di vita che ci fa sognare. In ogni città vogliamo si sappia che Firenze è anche Repa. Hey, hey, Firenze, what's up? Come on. Ehi, non c'è niente da fare. Stile di vita che ci fa sognare. In ogni città vogliamo si sappia che Firenze è anche Repa. Hey, Firenze, what's up? Firenze, what's up? Firenze, what's up? Firenze, what's up? Come on. Ogni mia storia porta poca gloria. Sputo in faccia la cruda realtà e ti dico che è troia. In ogni quartiere il degrado geme. Teste lese cercano di svuotare il mese, sperando che la legge non precede. La Firenze per bene, dove non sai quello che succede. Tra monumenti e chiese c'è molto di più di quello che l'occhio vede. Dalle vie lussuose di negozi chic fino ai ghetti dove la merda è in. So come va e se canto Firenze, what's up? È solo per la scena e va. Come on. Ehi, non c'è niente da fare. Stile di vita che ci fa sognare. In ogni città vogliamo si sappia che Firenze è anche di fa. Firenze, what's up? Firenze, what's up? Firenze, what's up? Firenze, what's up? Come on. Centro Italia, Sud Italia, Nord Italia. Come on. Firenze, hip hop, la nostra realtà. Piazze, locali e club in quantità. È così che scoppia la notorietà. Yeah. Firenze, hip hop. Firenze, hip hop. Firenze, hip hop. Firenze, what's up? Ehi, non c'è niente da fare. Stile di vita che ci fa sognare. In ogni città vogliamo si sappia che Firenze è anche riva. Firenze, what's up? Firenze, what's up? Firenze, what's up? Firenze, what's up? Firenze, what's up?